Picasso. E quando con Kunji Kema a Chassona e lo sa che fula. Wanyo mile, wamba pale, analengole, nyo enyombi shalunya. Etalero kendo kayami asoko kendi, lekolo tachule na tamachu, itali mama, kukule kolo pimba. Wanyo mile, wamba pale, langero ato ekolo kongami uolo, yo, yo kimanyia, kele mbude, mbude lolongo, viva ade, yo kimanyia. Wanyo mile, wamba pale, analengole, yo enyombi shalunya. Etalero kendo kayami asoko kendi, lekolo tachule na tamachu, itali mama, kukule kolo pimba ma. Wanyo mile, wamba pale, langelo ato ekolo kongami wolo, yo, yo kimangia, kele mbude, mbude lolongo, viva ade, yo kimangia. Yeah. Yellow Mamba.